giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Grande movimento turistico a Trieste in questi giorni che precedono il Capodanno, ma non si registra il pienone degli anni scorsi. Un quadro dagli alberghi e dai B&B. Montagna gettonatissima in questi giorni di festa. Solo ieri nei 6 comprensori gli ingressi hanno superato quota 18.000, il 40% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. Pienone a Sappada. Nonostante la regione possa contare su un buon tasso di occupazione femminile, la vocazione delle donne in regione ad avviare un'attività imprenditoriale non è particolarmente elevata, lo dice uno studio della CGA di Mestre. Diminuiscono gli immigrati che scelgono di vivere nel nostro paese. La provincia italiana dove si registra invece la maggior crescita è quella di Gorizia, i dati del CNEL. Denunciato per ricettazione un camionista rumeno di 32 anni durante un controllo nei pressi dello svincolo per Villesse, è stato sorpreso con merce rubata per 1 milione di euro. Tra arte, presepi e tradizioni contadine e la magia di Po Fabbro nel cuore della Val Colvera, scrigna anche di numerosi presepi artigianali che adornano ballatoi, cortili e finestre del paese. Approda al Politeama Rossetti di Trieste il musical Peter Pan, tratto dal romanzo di John Matthew Barry, musiche di Edoardo Bennato, alcune canzoni sono tratte dall'album Sono solo canzonette. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Andrei Marussic e da Elisabetta Zaccolo in studio per la seconda edizione del nostro giornale radio. Trieste e la montagna, come sentiremo, animata dai turisti in questo scorcio di fine anno, affollati bar e ristoranti, parcheggi pieni, ma negli hotel e nei bed and breakfast non si registra il quasi tutto esaurito degli anni scorsi. Ultimi giorni dell'anno tradizionalmente sono le giornate che vedono il maggior afflusso di turisti in città, a Trieste, destinazione che viene scelta soprattutto nel periodo di Capodanno da turisti italiani e stranieri. Gli scorsi anni erano stati all'insegna di un notevolissimo incremento di presenze. Quest'anno come sta andando, quantomeno per quello che riguarda le strutture extra alberghiere? Lo chiediamo a Fulvia Ercoli, che è vicepresidente dell'Associazione Regionale dei Bed and Breakfast e delle Case Vacanze. Allora, com'è quest'anno dal punto di vista delle presenze nel periodo natalizio e soprattutto delle prenotazioni per Capodanno? Quest'anno il Natale è stato un Natale molto, molto tranquillo, non ci sono stati grandi numeri, ma del resto non ce li aspettavamo, perché la tipologia di turista che sceglie le nostre strutture extraalberghiere privilegia le famiglie e quindi il Natale preferisce mediamente farlo in famiglia. Il Capodanno invece ci aspettavamo qualche cosina di più, non si sta prospettando un Capodanno pirotecnico e ci sono parecchi italiani e stanno veramente mancando gli stranieri, cosa che peraltro abbiamo già riscontrato anche quest'estate. Che tipo di turista straniero sta venendo a mancare, la provenienza in particolare? Direi prevalentemente i tedeschi, e seguiti a ruota dagli austriaci, che erano il blocco di turisti che maggiormente privilegiavano le nostre strutture. Anche turisti dell'est. E mancano soprattutto un po' le famiglie, forse per problemi economici, e le famiglie un po' più benestanti magari preferiscono andare in centro e nelle strutture alberghiere un po' più lussuose. Però quest'anno avete notato un incremento delle prenotazioni delle vostre strutture a Trieste da parte di turisti italiani? Assolutamente, infatti questa cosa ci ha stupito, perché abbiamo avuto tantissimi quest'estate tantissimi turisti italiani rispetto agli stranieri che, come dicevo, sono un po' venuti a mancare. Attratti secondo lei da che cosa? Gli italiani sono attratti sicuramente da Trieste, dal Friuli Venezia Giulia e anche dal fatto che siamo una regione di confine e quindi hanno la possibilità di raggiungere, stando qui, sia la Slovenia che la Croazia, ma soprattutto la Slovenia. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci in montagna, dove tutte le piste sono aperte e dove gli appassionati di sci sono in aumento. Pienone non solo a Tarvisio in queste giornate di festa, ma anche a Sappada. Vicine ai record delle belle giornate lunghe di carnevale, i primi ingressi nei 6 comprensori sciistici regionali della giornata di ieri hanno superato quota 18.000, un aumento consistente di quasi 40% rispetto agli stessi giorni dello scorso anno, quando, a dire il vero, il meteo e soprattutto le condizioni della neve non erano ideali, come invece in questo lungo weekend post-natalizio. Aperte praticamente tutte le piste grazie alla nevicata del 22-23 dicembre e all'innevamento programmato, reso possibile anche dalle temperature sufficientemente basse, soprattutto nella notte. A Sappada splende il sole, la conseguenza è il pienone, parcheggi pieni, fila la seggiovia del Col dei Mughi, e aperto da oggi anche il versante sul sole in quota, quello di Sappada 2000, dove però è ancora chiuso il rifugio che, seppur parzialmente, vista l'inagibilità di parte della struttura, dovrebbe aprire nella giornata di lunedì. Gettonatissimi i campetti per imparare a sciare, così come il parco giochi di Neverlandia, dove centinaia di bambini stanno prendendo confidenza con la neve. La pista nera fino a tarda mattinata è invece stata riservata agli allenamenti delle squadre agonistiche, non solo agli ciclisti locali, ma anche a diversi stranieri, che tra le Dolomiti nostrane vengono sempre più spesso, anche durante le festività natalizie, sloveni, ma soprattutto slovacchi, cechi e ungheresi, attratti dai prezzi accessibili degli ski pass, mentre la ricettività ha alzato i prezzi anche del 40% nel post-pandemia. Soddisfatti albergatori e ristoratori, trovare una stanza per Capodanno è ormai impossibile. Per i pranzi nelle diverse baite in valle, la prenotazione è di fatto obbligatoria, viste le richieste. Sappada, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Momento positivo anche ad Arta Terme, grazie pure all'ampliamento della struttura con la nuova piscina. Si punta molto sulle famiglie, ma sentiamo. Terme di Arta prese d'assalto in questi giorni di vacanze. Il turismo sta inserendo il capitolo Terme anche per la vacanza montana. Ne parliamo con Lorenzo Paolini, che è il responsabile dello stabilimento di Arta per Terme FVG. Soprattutto in questa stagione invernale, ma anche nel periodo estivo, le terme giocano un ruolo importante, ecco, nell'attività turistica del territorio, chiaramente con servizi usufruibili a livello giornaliero, ma soprattutto mezzogiornata. Come un esempio, una mezzogiornata a sciare e il pomeriggio alle terme è perfetto. Qual è la vostra clientela e com'è cambiata in questi anni? Si divide chiaramente in varie fasce, divise per i servizi che offriamo. Al momento stiamo offrendo un servizio curato per le famiglie, grazie anche all'ampliamento dello stabilimento e all'apertura dell'area nuova, della piscina nuova. Cosa dicono i dati della stagione 2024? Sì, i dati sicuramente sono positivi, c'è un miglioramento su tutti i fronti, sulle cure termali, ma anche tutta la parte dell'area wellness. La struttura è in ampliamento e in continuo miglioramento per la qualità dei servizi, ecco, che offriamo verso le famiglie e verso i nostri pazienti. Arta Terme, Armando Mucchino, TGR FVG. Sebbene l'occupazione femminile in regione sia al 65,4%, non sono molte le imprese guidate da donne, che sono poco meno di 20.000 e rappresentano solo il 22,9% del totale regionale, una quota in linea con la media nazionale, che è del 22,7%, ma inferiore ad altre regioni, che colloca il Friuli Venezia Giulia al 14° posto. Le imprenditrici favoriscono l'occupazione femminile dando lavoro ad altre donne, contribuendo così alla riduzione delle disuguaglianze di genere. Il carico di lavoro domestico e la mancanza di servizi per l'infanzia rappresentano ancora un impedimento al lavoro femminile. L'autoimprenditorialità è vissuta anche come soluzione. L'autoimpiego è uno strumento per reinserirsi nel mercato del lavoro, realizzare obiettivi personali e ottenere flessibilità lavorativa. Nonostante il numero contenuto, queste aziende contribuiscono in modo significativo alla crescita economica e alla qualità del tessuto produttivo regionale. A livello territoriale, Gorizia spicca per incidenza di imprese femminili, sono il 23,4%, segue Udine con il 23,2%, mentre Trieste e Pordenone seguono con valori leggermente più bassi. Il tempo, cielo sereno su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11, Trieste 12 gradi e 5 decimi, Udine 11 gradi e 5, Gorizia 10 gradi e 5 decimi, Pordenone 8 gradi. Forni di Sopra 10 gradi, Piancavallo 8, Tolmezzo 7 gradi e 5 decimi, Tarvisio 1 grado, Sappada meno 5 decimi di grado. Sullo Zoncolano 8 gradi, invece sull'Ussari 6 gradi e 5 decimi. A Grado 8, a Lignano invece 7 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio avremo cielo sereno poco nuvoloso per qualche velatura, sul Carso soffierà borino, in montagna inversioni termiche con zero termico a 2800 metri circa. Domani avremo cielo sereno su tutta la regione con inversioni termiche in montagna a zero termico a circa 2600 metri, marcata escursione termica in pianura. Le 12.40, la cronaca: un incendio è divampato questa mattina sul tetto di un condominio in via Gabriele D'Annunzia a Pordenone, dove erano in corso lavori di riqualificazione. Il rogo è scoppiato alle 9.20, i vigili del fuoco sul posto con una ventina di uomini hanno evacuato l'intero condominio, compresa una persona disabile. Non risultano persone ferite o intossicate, le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso. Nelle scorse settimane, lungo l'autostrada A34, la polizia ha denunciato un cittadino rumeno di 32 anni per ricettazione. L'uomo, diretto in Slovenia a bordo di un auto articolato con targa rumena, è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale di Gorizia nei pressi dello svincolo di Villesse. Nel corso del controllo del veicolo, gli agenti hanno riscontrato numerose violazioni alla normativa del trasporto merci, tra le quali la mancanza della licenza comunitaria in conto terzi e dei documenti che accompagnavano la merce. Hanno proceduto all'immediato fermo amministrativo del mezzo. Durante l'attività di indagine condotta dal personale della squadra di polizia giudiziaria sezionale in sinergia con il centro di cooperazione internazionale di polizie dogane di Ventimiglia, è emerso che la merce trasportata, composta da numerosi colli contenenti articoli di cosmesi commercializzati da una nota catena di distribuzione, era provento di un furto. La merce, dal valore dichiarato di circa 1 milione di euro, è stata spedita il giorno prima da un centro di logistica in Francia ad uno in Spagna per la successiva consegna alla piccola distribuzione e durante il percorso stradale era stata trafugata durante la notte. La merce è stata sequestrata per la successiva restituzione alla ditta francese. La notte scorsa la polizia di Trieste ha arrestato un cittadino croato di 47 anni per cumulo di pena pari a 4 anni e 6 mesi per una serie di furti e spaccio di sostanze stupefacenti commessi in ambito nazionale. L'uomo era stato fermato durante un controllo a San Giovanni di Duino. L'operazione, nell'ambito del rafforzamento dei controlli sull'altipiano e nelle aree più sensibili della città, pianificato nel corso di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Diminuiscono gli immigrati che scelgono di vivere nel nostro paese. La provincia italiana dove si registra invece la maggior crescita è quella di Gorizia. A dirlo una ricerca del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL. Da Roma il servizio di Francesca Cosentino. Gli immigrati che scelgono di vivere in Italia sono in calo. Lo riferisce l'ultimo rapporto redatto dal CNEL. Dopo il grande flusso del decennio 2001-2011, quando gli stranieri sono cresciuti di ben 3 milioni, negli ultimi anni l'incremento è stato solo di 700.000 unità. Oggi ufficialmente gli stranieri nel nostro paese sono poco più di 5.300.000, il 9% della popolazione. Gli immigrati che arrivano in Italia perché richiedenti asilo per lavoro o ricongiungimento familiare alla fine preferiscono altre mete dove trovare evidentemente più opportunità di vita migliore. Tant'è vero che sui 2.374.000 stranieri che lavorano in Italia il nord ne assorbe il 61%, il 24% sono al centro e solo il 13% è al sud. Le province dove si riscontra una maggiore crescita di presenza sono Gorizia, Matera e Prato, mentre quelle con minore incremento, Crotone, Fermo e Perugia. La comunità straniera più numerosa risulta quella rumena, più di 1 milione di residenti, seguita da albanesi, marocchini, cinesi, ucraini e poi stranieri del Bangladesh, indiani, filippini, egiziani e pakistani. La maggior parte di essi è impegnata, specie le donne, come collaboratori domestici, gli uomini nei servizi, nel commercio, nella ristorazione e nell'agricoltura. Solo l'8,7% ha un lavoro qualificato, il resto ha una bassa scolarità. È stato reso noto il bilancio dell'anno 2024 dal Comando Provinciale Carabinieri di Trieste. Nei 12 mesi gli uomini dell'arma sono stati impegnati in 11.600 tra servizi di pattuglia e perlustrativi, in circa 3.000 servizi di ordine pubblico con l'impiego complessivo di 28.000 militari. Inoltre sono stati effettuati 50.844 controlli con l'identificazione di oltre 104.000 persone e verifiche su 41.330 veicoli, obiettivo, in quest'ultimo caso, di prevenire e reprimere comportamenti che sono causa di incidenti stradali, con particolare attenzione alle verifiche sulle condizioni psicofisiche dei guidatori, sull'abuso di alcol e sostanze psicotrope. Nel corso dell'anno i carabinieri di Trieste hanno perseguito circa 6.000 reati, con un lieve incremento percentuale rispetto al 2003, a fronte però di un aumento del più del 17% del numero dei deferiti all'autorità giudiziaria, che si è attestato a 1.800 persone, di cui 172 in stato d'arresto. Affrontato anche il fenomeno delle truffe, in particolare di quelle ai danni degli anziani, il numero dei reati denunciati è lievemente diminuito, mentre quello delle truffe scoperte è aumentato da 130 a 166. Per questo fenomeno il nucleo investigativo ha arrestato 12 persone e deferito 18 in stato di libertà. Nell'ambito dei reati sulla cosiddetta violenza di genere, ai delitti di codice rosso su donne vittime di violenza verbale, psicologica o fisica, i militari dell'arma hanno deferito all'autorità giudiziaria 126 persone in stato di libertà e 13 in stato di arresto, mentre sono stati 14 i provvedimenti di allontanamento dal nucleo familiare e 21 i provvedimenti di applicazione del braccialetto elettronico. Sono stati 40 i soccorritori che hanno tentato invano di raggiungere in 5 durissimi giorni i 2 alpinisti romagnoli morti assiderati sul Gran Sasso. Continuano ad essere numerosi gli incidenti in montagna anche in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo le avvertenze di Raffaello Patat, delegato regionale del Soccorso Alpino. La montagna, come sappiamo, è un ambiente che varia a seconda del periodo, delle stagioni, ma anche durante l'arco della giornata. Quello che mi viene in mente adesso, avendo anche frequentato la montagna in questi giorni, la neve che è arrivata, ma non tanto la neve che è arrivata, piuttosto il vento che l'ha portata, il vento che è seguito alla nevicata. E quindi ci sono delle zone dove, nonostante abbia nevicato, non c'è più neve, quindi si vedono i sassi, si vedono i ghiaioni, si vedono i crinali spelacchiati, mentre quella neve lì è andata a finire e si è accumulata nei canali. Quindi è un problema di accumulo di neve che può presentare limitatamente dei pericoli, diciamo, legati al distacco valanghivo, ma più che altro a un distacco superficiale che potrebbe far scivolare le persone verso il basso, no? E il vento provoca anche delle gelate, quindi delle ghiacciate. Le superfici, magari anche sotto le foglie all'interno del bosco, potrebbero presentare dei tratti ghiacciati, quindi con possibili scivolate da parte di chi transita. Quali sono delle norme di prudenza da osservare in questa situazione? Bisogna avere l'equipaggiamento adatto e saper riconoscere, o saper almeno essere pronti a vedere dove si possono trovare queste condizioni che possono essere insidiose per gli escursionisti. Quindi chiaramente avere degli indumenti, delle calzature e eventualmente i ramponi in certe zone dove ci possono essere questi problemi, e non essere, diciamo, timorosi nell'utilizzarli. Le giornate sono più corte, viene buio presto, quindi col buio viene anche freddo, e le cose col buio e col freddo cambiano radicalmente. Abbiamo dei tempi molto minori di poter stare esposti alla luce, con la luce, e quindi potremo andare a trovarci in situazioni dove l'oscurità non ci aiuta sicuramente a percorrere qualsiasi tipo di percorso in montagna. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Non solo è uno tra i borghi più belli d'Italia, Poffabro, nel cuore della Val Colvera, è famoso sì per le sue pietre tagliate nel vivo, per i pilastri e per i balconi in legno, ma anche per i numerosi presepi artigianali. Poffabro, presepe, tra i presepi, quest'anno con più di 400 creazioni artigianali si rinnova la tradizione che da quasi 30 anni anima il suggestivo borgo della Val Colvera. Sandro Rovedo, sindaco di Frisanco. Questa è la 27esima edizione e per noi è sempre una bella occasione per far conoscere Poffabro e la Val Colvera, insomma, ai tanti cittadini che vengono a trovarci, ed è un bel modo anche per passare un po' di Natale in tranquillità, insomma, lungo le vie del nostro borgo. Tra le nicchie e sui balconi, presepi di scarpezze, presepi dal mondo, realizzati dalla creatività di bambine e bambini o adagiati su un antico scaldaletto. Ognuno può scovarli lungo le vie del borgo grazie al lavoro di volontarie e volontarie. Paola Franceschina della Proloco Val Colvera. L'inizio è stata un'idea di qualche persona qui del borgo che, per non vedere il borgo morto, ha iniziato a esporre qualche presepe nei buchetti che ci sono nei muri, in qualche finestrella vuota. Poi questa cosa ha preso piede e adesso che ci sono oltre 400 presepi c'è la gente proprio che ci chiede di trovare un posto per esporli. Signor Dorino, che cosa sta realizzando? Sto facendo con del cirmolo un San Giuseppe. Da questo qua viene fuori San Giuseppe con bastone tutto attaccato. Il cirmolo è quello legno che viene dall'Austria, però adoperiamo anche il tilio, che è un legno di qua di Pofabro, perché avevamo uno scultore nell'Ottocento che si chiamava Giacomo Marizza, che lavorava solo il tilio, perché quella volta era autarchia, ognuno lo faceva con quel che aveva, no? Le opere sono visitabili fino al 12 gennaio. Pofabro, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Appuntamento con il musical al Politeama Rossetti di Trieste. Questa sera va in scena Peter Pan, tratto dal romanzo di John Matthew Barry, con musiche di Edoardo Bennato. Alcune canzoni sono tratte dall'album Sono solo canzonette e la regia di Maurizio Colombi. Il musical ha debuttato nel 2006 e conta un migliaio di rappresentazioni. Sipario alle 20:30, replica domani alle 16. Il giovanissimo Luca Nencetti interpreta Peter Pan anche con l'aiuto di effetti speciali. Sentiamolo. Con l'aiuto dei tecnici sì, volo, altro che, non sono l'unico a volare, insomma voleremo. Poi c'è Trilli, che è interpretata da effettivamente una luce che mi segue in più occasioni, e quello, se vogliamo, un altro set speciale. È un'esperienza che dura già da tempo, ma cosa ti affascina di più di questo personaggio? La nostalgia di fondo, che però è molto nascosta, e poi invece quello che riusciamo a vedere tutti quanti, quindi l'entusiasmo, il magnete che è Peter Pan, il divertimento. Tu sei giovanissimo, ma questo Peter Pan ti fa sentire ancora più giovane? Beh sì, perché devo essere puro, purissimo. Non devo pensare, non devo proprio avere una mente adulta. E poi c'è Bennato. Quale delle sue canzoni che accompagnano lo spettacolo preferisci di più e perché? Difficilissimo. Vabbè, La Fata, perché è un momento speciale per me, è un momento bellissimo per me, e perché è una specie di gospel, una canzone che può ricordare Zucchero per alcuni versi e mi piace da morire, ma in realtà tantissime. Mi fa volare un gioco spettacolare, anche le prime due introduzioni dell'ensemble sono bellissime. Poi un invito al pubblico triestino, perché non si deve mancare a questo musical? Perché è uno spettacolo che riesce a fare quello che dovrebbe fare il teatro, cioè fa vivere emozioni condivise. Ci sono una serie di momenti umani, di difficoltà e poi di gioia che si vivono tutti quanti insieme, e veramente si esce modificati dallo spettacolo. Domani, domenica, su Rai 3 va in onda la nostra rubrica Diffusione Nazionale Est-Ovest. Sentiamo un'anticipazione. In Polonia, a Cracovia e Varsavia, le autorità hanno introdotto forme di proibizionismo per limitare il consumo di alcolici. A Tallinn, in Estonia, in un'antichissima farmacia, si produce il marzapane, che nel Medioevo era considerato un medicinale. L'Europa e l'immigrazione, le incertezze della politica tra il diritto d'asilo e il bisogno di governare il fenomeno. La difficile trattativa tra Atene e Londra per la restituzione dei marmi del Partenone custoditi dal British Museum. La fortezza dello Spielberg a Brno, il carcere dove erano rinchiusi i carbonari italiani, è ora un'attrazione turistica. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 minuti su Rai 3. E sempre domani, ma dopo il nostro giornale radio, alle 8:30 in onda Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura è il bilancio della stagione agricola 2024 con l'assessore regionale all'attività agroalimentari Stefano Zanier. A seguire, per la rubrica su agricoltura e cibo, l'ame, una vecchia preparazione norcina ormai dimenticata anche dai norcini. Nuove strategie per l'utilizzo razionale dell'acqua in agricoltura con la creazione di stagni e laghetti aziendali. Prima puntata sul riso, pianta che ha contribuito e contribuisce a sfamare più della metà della popolazione mondiale. E ancora nella rubrica del vino, le avvertenze necessarie per prevenire ed eliminare i sentori di aceto. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha preso il via il 13° Festival Città di Palmanova, il torneo internazionale di scacchi che vede sfidarsi 200 giocatori provenienti da 34 paesi di tutto il mondo fino al prossimo 3 gennaio. L'evento è curato e gestito dall'associazione Palma Scacchi. Tutti gli incontri della competizione si disputano all'interno dell'ampio sottotetto a volte dell'ex caserma napoleonica Montesanto. Per la Federazione Scacchistica Italiana, quello di questi giorni a Palmanova è il più importante appuntamento scacchistico di fine anno, inizio anno in Italia. Un'opportunità per diventare direttore sportivo delle società calcistiche la propone l'Università di Udine con il corso per direttore sportivo accreditato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'iniziativa formativa è progettata per chi desidera acquistare o perfezionare le competenze necessarie per ricoprire questo ruolo centrale nella gestione sportiva delle società di calcio. Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio alle 12. Per accedere al corso, che si terrà da febbraio a maggio 2025, è sufficiente possedere il diploma di scuola superiore. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione www.uniud.it/direttore-sportivo. Ed è tutto per questo giornale radio. In redazione hanno collaborato Laura Sarasini e Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito, Mauro Cumin e Giuliano Pecorari. Da parte di Andrei Marusic e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.